Bologna e Parigi sono due realtà molto diverse, non fosse altro per la dimensione. Parigi è una città di 2 milioni di abitanti con, credo, 50 milioni di turisti all'anno e quindi con una grossa pressione anche dal punto di vista turistico. Bologna ha sicuramente visto un aumento del turismo, ma non ai livelli di Parigi ed è organizzata in maniera molto diversa, tanto dal punto di vista sociale che dal punto di vista del traffico. La seconda premessa è che non si possono prendere singole misure e staccarle dalla, totalità del traffico e della vita, delle persone. Il limite dei 30, tanto a Parigi quanto a Bologna, è una misura che si inserisce in una realtà e si pone certi obiettivi all'interno di un contesto più grande, che è quello economico, sociale, ambientale e così via. Per questo ci tengo a dare alcuni dati su Parigi per inquadrare la situazione diversa che si vive qua. Parigi, come tutti sanno, ha una metro molto sviluppata e molto presente, che viene utilizzata moltissimo dalla popolazione, tanto che ci sono 5 milioni in media, 5 milioni di passeggeri sulla metro ogni giorno. E un altro dato che mi ha stupito sono le stazioni di Parigi in cui i treni arrivano tanto dal resto della Francia quanto dalla periferia larga, diciamo dalla regione di Parigi. Per esempio, quando stanno ristrutturando la stazione Gare du Nord, una delle 4-5 stazioni di Parigi, sui pannelli si può leggere che ad oggi la stazione accoglie 220 milioni di passeggeri all'anno e si passerà una volta fatta la ristrutturazione a 300 milioni di passeggeri all'anno, in media, per dare un'idea, 1 milione di passeggeri al giorno, 500.000 al mattino che vanno al lavoro a Parigi, 500.000 che ripartono. Per quanto riguarda l'auto, anche qui ci sono grosse differenze rispetto a Bologna. Secondo alcune statistiche, il 70% delle persone che vivono a Parigi, che abitano a Parigi, non possiedono un'auto e il 30% rimanente, la maggior parte di queste persone qui la usa 1 o 2 volte a settimana. Diciamo, per dare un'immagine, per andare a fare la spesa il sabato in un grande centro commerciale fuori dalla città. Questo anche perché è molto difficile trovare un posto di parcheggio per parcheggiare l'auto qui. I posti auto sono estremamente cari, possono costare come un piccolo appartamento in provincia a Bologna, possono acquistare posti auto, e ripeto, non garage, a 40-50 mila euro per ciascun posto. Per cui l'auto è molto difficile da usare a Parigi ed è quasi percepita come un bene di lusso. Non è la stessa cosa nel resto della Francia, non è la stessa cosa al di fuori di Parigi, nella regione parigina. Inoltre, la mobilità a Parigi è composta soprattutto negli ultimi anni, in maniera crescente negli ultimi 10, ma con un boom molto forte in seguito alla pandemia, dalle biciclette. Già prima della pandemia si erano cominciate a sviluppare le piste ciclabili. Durante il lungo periodo pandemico, non solo quando eravamo chiusi in casa, ma in quei 3 lunghi anni in cui abbiamo dovuto limitare i nostri spostamenti, Parigi si è votata. 7 parigini su 10 non sono di Parigi, quindi hanno radici nel resto della Francia, nel resto d'Europa o del mondo ed erano tornati a casa. Il traffico era molto diminuito e si è colta l'occasione per fare qualche chilometro, qualche decina di chilometri di piste ciclabili che seguono tendenzialmente il percorso della metro, per cui si conosce, che percorso fare. Questo tanto per incentivare la bici, quanto per rispondere a un aumento molto forte dell'utilizzazione della bicicletta dovuto a restrizioni sanitarie. In più c'è un servizio, secondo me, abbastanza buono, anche se un po' caro, per noleggiare bici e per restituirle. Bene, questo è il quadro in cui si inserisce la limitazione dei 30. La limitazione dei 30 a Parigi ha colpito molto poco i parigini, non ci sono state proteste significative, un pochettino all'inizio, ma sostanzialmente non moltissimo, e quindi la misura è stata sostanzialmente ben accolta. E si inserisce in un progetto più grande di limitazione delle auto, tanto che per esempio ormai da diversi anni i bordi della Senna che prima erano delle vie di scorrimento anche abbastanza veloci e che attraversavano la città, sono stati pedonalizzati, su richiesta delle popolazioni che chiedono meno inquinamento, meno rumore e meno auto. Sintomo di questo sono 2 referendum cittadini svolti lì online, uno passato che ha chiesto per esempio di eliminare i monopattini che creano un grosso problema alle bici, alle persone con handicap che vengono parcheggiati, quindi una visione della città molto più, diciamo, a misura d'uomo, ma un referendum prossimo che io mi aspetto sia approvato, che chiede di vietare i SUV in centro città. Immaginatevi una città con strade piccole già carente di parcheggi che vuole limitare inquinamento e rumore, chiaramente i SUV non vanno in quella direzione. Io spero di non creare troppa collera tra gli automobilisti bolognesi che sono contromisura dei 30, però è stato molto più difficile da accettare qui il limite, ormai in vigore da anni, ben prima della pandemia, dei 70 km all'ora in tangenziale, in cui appunto si è passato da 90 a 70. E in quel caso lì ci sono state proteste, e qui in Francia si tende a protestare molto e a mettere in piazza anche le minime cose, e all'epoca ci furono uno o due mesi in cui i motociclisti, proprio come quelli che vediamo nei film, attraversarono Parigi rombando e protestando contro questa loro limitazione della libertà. In realtà è molto relativa, nel senso che io sfido chiunque a raggiungere i 70 anche di notte, anche in piena notte, sulla tangenziale di Parigi, che è sempre stranamente trafficata e che quindi è una misura che non tocca moltissimo, se non in rari momenti, chi conduce auto o camion. Quelli che sono stati veramente toccati da questa manovra dei 30 km all'ora sono due categorie: una, quella dei taxisti, non tanto i taxisti classici quanto le auto blu, i VTC come si dice qui a Parigi, cioè quelli che conosciamo come Uber, e loro purtroppo, avendo tariffe fisse, se la velocità diminuisce diventa un problema, nel senso che già loro lavorano una quantità d'ore spropositata, a volte 60, 70 e più ore a settimana, per poter arrivare a fine mese e ripagare le auto e tutto il resto. Se la tariffa non aumenta e la velocità consentita diminuisce, o si accettano di prendere multe oppure si perde fatturato. L'altro sono gli artigiani che ovviamente non hanno sede in città, la hanno sede fuori dalla città e che sono costretti quindi a diminuire la loro velocità, a fare, che ne so, 3 interventi invece di 4, perché altrimenti non possono andare alla velocità precedente. In generale questo pone un po' un problema democratico, nel senso che quelli che sono più toccati, appunto per esempio gli artigiani, non abitano all'interno della circoscrizione di chi decide questa misura qui. La sindaca di Parigi, Hidalgo, ha deciso queste misure, ben accolte dalla popolazione. Chi deve pagare queste misure qui da un certo punto di vista non è tra i suoi elettori. In ogni caso vedremo più sul lungo termine se queste politiche vanno effettivamente e ottengono i risultati che si propongono, soprattutto in termini di inquinamento atmosferico e di rumore. Sono stati fatti alcuni primi bilanci, ma sono misure che si possono valutare solamente nel lungo periodo.